Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Introduzione di Maurizio Cucchi. Il piacere è una delle opere più note, più lette, più celebri di Gabriele D'Annunzio ed è anche un'opera giovanile. Andiamo quindi un po' per ordine. Gabriele D'Annunzio nasce nel 63 e comincia a pensare a questo libro in qualche modo già poco dopo i 20 anni e quindi ha una gestazione abbastanza lunga, anche se poi verrà scritto molto rapidamente, per la precisione tra il luglio e il dicembre dell'88. Però pur essendo un ragazzo, insomma, pur essendo un autore molto giovane, D'Annunzio è già noto, anzi quasi celebre, ha già pubblicato Terra Vergine nell'82, che sono bozzetti veristi, e ha pubblicato dei libri diversi come Primovere del 79, Canto Novo dell'82, Isotta Gutta d'Auro dell'86, e già la bizzarria del nome ci introduce un po' nel carattere estetizzante del piacere. Nell'87 pubblicherà Le Elegie Romane. Intanto nell'84 si era trasferito a Roma e lavorava per la Tribuna di Roma, per un giornale, un periodico nel quale si occupava essenzialmente di cronaca mondana. Viene quindi a contatto con l'ambiente anche altolocato romano, con l'ambiente mondano di Roma, conosce una giornalista che si chiama Olga Ossani, una giornalista napoletana che è in qualche modo il modello del personaggio femminile centrale del piacere, e cioè di Elena. In ogni caso, solo verso la fine, nella seconda metà dell'88, comunque a 25 anni, Gabriele D'Annunzio si accinge alla composizione di quest'opera, che è anche abbastanza lunga, e riesce a portarla a termine, la manda all'editore Treves, il quale con qualche turbamento, dato anche il carattere, siamo in tempi molto diversi dai nostri, sinceramente parlare di scandalo per un'opera del genere oggi può far sorridere, ma allora non era così, pubblica questo libro che esce perciò il 13 maggio dell'89 ed ha subito successo, 4 ristampe nel corso dell'anno. E visto che oggi siamo abituati purtroppo a badare più al numero delle copie vendute che alla qualità, anche questo aspetto è piuttosto importante, anche perché l'opera di D'Annunzio ha qualità e piace. All'interno di questo romanzo si notano alcuni aspetti molto chiari, cioè intanto dei riferimenti culturali, dei riferimenti letterali piuttosto precisi. Il protagonista, Andrea Sperelli, è un desessant senza ironia. Ci sono poi altri riferimenti ai Goncourt, a Federica Mieli. Insomma, D'Annunzio è un gran letterato e si nutre molto bene di letteratura. Per quanto riguarda la vicenda, non si può dire che esistano molte situazioni, non si può dire che ci sia una grande abbondanza di azioni. C'è un protagonista, che è questo giovane poeta e anche incisore. Ci sono due donne, soprattutto Elena e Maria, e in realtà gli avvenimenti sono più interiori o più frivoli che non rilevanti dal punto di vista della narrativa. Per quanto riguarda i caratteri stilistici, devo dire che questa è forse la cosa più importante, perché nel libro si può rimanere ammaliati proprio da quel suo morbido fascino musicale, cioè il fatto che sia stato scritto da un poeta si avverte benissimo. C'è il controllo e la raffinatezza, c'è anche semmai qualche aspetto eccessivamente estetizzante che al gusto naturalmente del contemporaneo può turbare. Va anche detto, e concludo prima di lasciarvi all'ascolto, che D'Annunzio ritornò poi sull'opera, fece dei rimaneggiamenti per l'edizione francese e poi molto più avanti ancora di più per l'edizione nazionale delle sue opere del 1928. L'anno moriva assai dolcemente. Il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor velato, mollissimo, aureo, quasi primaverile, nel ciel di Roma. Tutte le vie erano popolose come nelle domeniche di maggio. Sulla piazza Barberini, sulla piazza di Spagna, una moltitudine di vetture passava in corsa attraversando. E dalle due piazze il romorio confuso e continuo, salendo alla Trinità dei Monti, alla Via Sistina, giungeva fin nelle stanze del Palazzo Zuccari, attenuato.